Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, e la mente vola verso quel pianone, dove la volante calcia un pallone, con gli amici a perdichiato in libertà. Ci buttiamo dentro alla top 5, top 5 della settimana, 5 cose che ci hanno colpito. Ci sarebbe stato bene anche Cambiaghi, però ne abbiamo già parlato nella prima parte. Al volo sul Bologna, una partita senza recupero del Bologna, perché l'arbitro non ha dato recupero nel secondo tempo, non succedeva da un milione di anni. Ma questo argomento per Pastore, Giuseppe Pastore, non no, per Caffè prego, Paglia. Quale Giuseppe Pastore? Brava persona, brava ma persona. No, ma sempre... Sulle cose importanti della vita è uno a posto. È bravissimo, tra l'altro ogni tanto ho a che fare su altri canali social, è super bravo, però io non c'ho niente contro Federico Buffa, è il suo fan club che comincia a darmi nervi, ok? C'è troppa gente che comincia ad imitare quello che fa Federico Buffa, che può fare solo lui però, ok? Cioè, poi lui è bravo, però c'era anche fa la stessa cosa che faceva Tosatti negli anni 90, una cosa del genere, ok? È bravo, bravo, però... Vabbè, no, comunque non è argomento di top 5. No, non c'è neanche Giorgio Tosatti, che comunque non è più tra noi. E allora partirei subito, così, perché vedo Simone bello carico, sul primo punto della top 5, che è il tripudio di Allegri. L'allegritudine come sentimento, che è la partita, il derby del cuore tra Juventus e Milan. È stato proprio il tripudio di Allegri, cioè entra dentro allo stadium dopo essere stato insultato quando vinceva gli scudetti, figurati, è stato ovazione, standing ovation, allenava l'altra squadra. Ma e quale modo migliore per omaggiare il calcio di Allegri che... rifiutare il gioco del calcio, di fatto, per un'ora e 40. Che rifiuta il gioco del calcio, che finisce 0-0, quindi comunque, no, non è stato così... Vuoi dire qualcosa? Questa qua era una partita che fino a qualche anno fa era il nostro Barcellona-Real Madrid, no? Cioè, nostro nel senso come campionato italiano, come movimento del campionato italiano. Adesso vedo cose che non, cioè, che non vanno. Vedo cose che non vanno, vedo un allenatore che le sue due squadre, no? Giusto? Sono le sue due squadre. Lui allena soltanto Juventus o Milan. Non ha in mente di fare altro. Non ci ha neanche provato. No, Juventus e Milan. Ringraziando il cielo, lavoravo, quindi non ho visto non ho potuto vedere la partita. Però vedo Modric, 40 anni, che inventa un assist anche lì, magnifico, per quell'altro. Leao, abbiamo già detto tutto, abbiamo già detto qualsiasi cosa. E non lo so, adesso a parte gli scherzi, poi sento anche l'intervista di Tudor a fine partita in cui si dichiara molto soddisfatto del lavoro svolto, perché da quando lui è alla Juventus ha sbagliato soltanto tipo un paio di partite, e però non parla così l'allenatore della Juventus. Tu vieni da 5 pareggi consecutivi, stai lì due punti sopra il Bologna, te la bazzichi con gli altri, le altre stanno andando. Tra l'altro con lo stesso tabellino, col fatti con subito. Sì, ma ti dà quel senso di appiattimento, che non va bene. Non va bene. Poi roba, al di là del discorso tecnico-tattico, appunto, non ho visto la partita, quindi non posso fare nessun tipo di approfondimento di una cosa che non ho visto. Però a sentirlo parlare, ci abbiamo a che fare con due allenatori, secondo me, non degni delle panchine che occupano. La frase è importante, anche perché in realtà Allegri, avendo solo il campionato, secondo me porterà il Milan a giocarsi. Però è da piccoli ragiona così. Però porterà il Milan a giocarsi lo scudetto, quindi vediamo, perché insomma... Non ci credo che si gioca lo scudetto. Vediamo, cioè, potrebbe. Mi sbaglio, ma non potresti sbagliarti, la classifica adesso non conta perché non ci sono le caldarroste. Comunque è un Milan che dà fastidio a un po' tutti, nel senso che comunque impone il suo non gioco in un certo senso, copre molto bene il gioco avversario e ha alcuni giocatori che possono avere i numeri. È ovvio che il giocatore più forte di questa prima fase del Milan è stato Pulisic. Ieri Pulisic ha steccato forte. A parte il rigore, non ha fatto una grande partita, soprattutto quel rigore lì in una partita che è 0-0. E, diciamo, Allegri l'unico risultato che predilige allo 0-0 è l'1-0 per se stesso. Rigore generoso che c'è. Generoso, ma che c'è. E Kelly spinge in modo scomposto, batte scomposto Santi Giménez, che una volta aveva fatto una cosa buona, cioè entrare in area in quel modo. Non è stato premiato l'inserimento nel primo tempo, soprattutto la spina dorsale per vie centrali del Milan, abbiamo già detto tutto e il contrario di tutto su Modric, giocatore di quella classe là, ben assistito da Fofana e Rabiot, vicino a... Sì, ha bisogno di mettergli di fianco due buttafuori, però a livello quanto si corre in Italia, Modric può giocare ancora 2 o 3 anni comodamente. È un giocatore talmente grande, cioè, insomma, che sì, probabilmente in Spagna, in Inghilterra, in quei posti lì non lo farebbero giocare, c'è più, ritmo, è tutto più, molto più veloce, molto più intenso. La Juve prova a saltare il centrocampo con il migliore in campo del primo tempo, che con Seisao, davanti purtroppo c'è David irriconoscibile. David è veramente una roba allucinante. È anche vero, l'ha preso poi a parametro zero, non è che l'hanno, cioè non è stato un investimento, prende tanti soldi, ma è uno però... che ha segnato tanto, cioè questo è un buon giocatore. Lo so che può sembrare ridicolo dirlo in questo momento, ma questo è davvero un buon centravanti. Ora, poi ogni tanto scapita che l'attaccante, tutti gli attaccanti hanno quei momenti in cui non va, però è francamente poco riconoscibile. Sì, no, veramente poco riconoscibile. Non sembra quello che doveva essere il giocatore. Comunque, Tudor alla prima finestra di cambi cambia il migliore e il peggiore in campo, perché cambia con Seisao per Openda, che non lascerà il segno, ma proprio neanche un po', e mette su Kefren Turam e Vlahovic per Ildiz e Jonathan David. Non cambia niente, di fatto non cambia niente. Grandi difficoltà a fare gol per la Juve, sembra, a meno che non sia una partita in Europa contro il Borussia Dortmund in cui succede tutto il suo contrario. È sempre sembrata un po' legata davanti, dietro del reparto, difesa giocava di Rugani. Reparto giocava Rugani. Ci siamo ricordati che Rugani è ancora, c'è ancora un giocatore Rugani, della visto. Serie A. Era nella distinta, diciamo. Partita non sexy. Non pensavo nemmeno giocasse ancora. Partita non sexy, anche se vogliamo volessimo romanticizzarla a tempesta e dire: se un bambino chiedi a un bambino di disegnare una macchina, te la disegnerà rossa. Se chiedi a un tifoso internazionale, visto che questo è un grande prodotto d'esportazione, immaginare una partita di Serie A, ti immaginerà uno 0-0, te lo immaginerà, secondo me, un po' più bello di questo. Ma sicuro, anche perché possiamo i dirlo. Bambini ci sanno fare, no? Con fantasie, con la fantasia, sì, assolutamente. Bene, abbiamo passato. Rimane il punto di vantaggio del Milan sulla Juve: 13 punti per il Milan, 12 per la Juventus. Prima sì, della pausa, Milan che lascia il passo alle prime due, erano in tre in testa, no? Prima della giornata, lascia il passo alle prime due. E quindi andiamo a vedere la capolista, campione in carica, che inizia e ha sempre qualche problemino in più dell'anno scorso in campionato. Ma c'è un allenatore in panchina. Però c'è un signor allenatore. C'è un allenatore. Ora, innanzitutto, prima di entrare nella discussione partita, bellissime entrambe le divise. Belle, ma proprio belle. Quella del Genoa, mi permette di fare una pill. Se Robby Di Cappa togliesse tutto quel giallo intorno e lasciasse di giallo solo lo stemma che c'ha, adesso, soltanto lo stemma e magari il numero, tutto il resto soltanto rosso, blu, scuro come adesso, la maglia più bella. Per meno della stagione 2025-26, ma il Genoa lavora maglia bene. Clamorosa, il divisa Genoa clamorosa. È il discorso sui centri stile in California che dicevamo prima: se hai un'idea forte di brand, clamorosa, possono arrivare tutti i fighetti studiati del mondo e non te la inquineranno. Guarda, divisa davvero spettacolare, bella, bella, bella. E Genoa che si trova all'ultimo posto di classifica, pur giocando a pallone, esatto. La mette per lungo tempo in difficoltà, mette in difficoltà il Napoli. Va in vantaggio diciamo, e che gol tra l'altro, che gol che fa, entrambi i protagonisti del gol, due gesti tecnici ma anche di potenza atletica veramente notevoli. Norton Cuffi è un bel treno, l'altro è Hecator, quando c'ha 18 anni, un ragazzino, sì. Quello lì, che gol, che gol, ragazzi, bravi bravi. Giro nazionale under, comunque giocatore bravi, interessante bravi. E prodotto del vivaio genuano. Come Masini, il Genoa vedi che fa, li fa salire i ragazzini, niente male. Nel secondo tempo viene fuori il Napoli, viene fuori Conte, cioè viene fuori l'idea di smazzarla nel traffico, la qualità nel tocco di palla, la gestione degli spazi di una squadra che De Bruyne gioca in campo. A memoria, De Bruyne in campo. De Bruyne non c'è nel tabellino dei marcatori perché bollano Frank Zambanghissa, giocatore che sta diventando ultracontiano, e Højlund che dopo... Che continua, che bolla. Dopo i gol in Europa comunque si toglie anche questo sfizio qua. Se ne aveva fatti 6 l'anno scorso Zambanghissa, non era mai stato un grande realizzatore, con Conte ha aggiunto qualcosa, è già il secondo gol, tutti pesati, tra l'altro anche il secondo gol... c'è in mezzo lui, esatto, perché la prima botta la tiene, sua, sì. La tiene viva, la recupera, sì. La tira il colpo che poi permette a Højlund sul tap-in di andare a segnare. Højlund è, anche Højlund è un bel gioco, cioè quelli che escono da Manchester alla fine, ma guardate che tu sembrano... Manchester non sono mai stati i giocatori sembrano scarsissimi a Manchester, sì, sì. In realtà rimangono buoni giocatori, certo. Ecco, non gli cancella la memoria assolutamente, no, è lì che c'è qualcosa che non va. Giusto il risultato, giusto il primo posto in classifica momentaneo, sì. Del Napoli, primo per differenza reti, anche se a pari punti ce n'è un'altra che è argomento di top 5, malinconico l'ultimo posto a pari merito del Genoa, squadra in cui sembra non girare niente nonostante si giochi a pallone. E Vieira c'ha un problema nel reparto offensivo, cioè là davanti in tanti stanno arrancando, e Cator è la buona notizia lì in mezzo, ma il resto è... E poi prende un bel po' di gol, perché comunque ha preso 9 gol in 6 partite finora, e i punti latitano, perché sì, sei sì. Lì in fondo alla classifica, appaiato al Pisa a solo 2 punti. È vero. Allora, visto che abbiamo parlato della prima capoclassifica, bisognerà parlare della seconda capoclassifica, che un po' ci sorprende. Sorprende, se non altro, per conoscenza anche di Gasperini, che è nuovo allenatore in una piazza complessa, quella di Roma sappiamo essere piazza complessa, e si poteva pensare che nei primi mesi potessero esserci qualche problema di adattamento. Nel gioco sì. Diciamo così, non è il gioco di Gasperini, non gioca come l'Atalanta. Manco, ci vorrà tempo. I risultati sono quasi meglio di quelli dell'Atalanta. Quindi a volte anche il calcio, no? Vedi, quando giochi molto bene puoi raccogliere meno punti. La Roma, da quando ha ripreso Ranieri, diciamo così, c'ha una cappa di c'ha un'aura potentissima. L'hanno tenuto per quello, volevano tenere l'allenatore, lui, la moglie, sappiamo, la moglie. Ha permesso, però almeno un contrattino doveva averlo per mantenere questa aura incredibile. Gli gira tutto bene, diciamo così, però intanto va a vincere a Firenze, in una squadra che a questo punto è ufficialmente in crisi, nel senso male. Ha 3 punti la Fiorentina in questo inizio di campionato, no, 6 giornate, 3 punti come il Verona, un punto solo sopra al Genoa di cui parlavamo, Genoa e Pisa, ma giocando molto meno del Genoa a pallone, vince comunque a Firenze, non è mai facile. Allora, a un certo punto prima o poi i nodi verranno al pettine, nel senso che la Roma di Gasperini, sì, i punti li sta facendo, sta segnando poco, sta subendo pochissimi gol, non è sexy quasi mai, quindi ci sono delle cose da mettere a punto, però è lì davanti, e sulla viola invece è difficile trovare proprio gocce d'acqua in questo bicchiere, che non arriva ad essere mezzo pieno mai, non sta girando niente. Ti aspetti, anche se l'attacco con i nuovi innesti magari fa fatica a segnare, almeno una squadra ordinata dietro da una squadra di Pioli, e invece no, neanche quello. E fanno veramente del casino in campo, cioè sono una squadra un po' in autogestione nel senso più negativo che puoi dare a questa accezione. Sì, questo è il concetto. Poi la Fiorentina piazza complessa, non quanto Roma, però complessa, sappiamo, perché si piange molto e il campo è pesante. Esatto, sappiamo appunto i nomi che si sono presi, alcuni allenatori di qualità, ma perché c'è un problema di autovalutazione grosso a Firenze. Può essere, e il problema è che adesso l'autovalutazione porta al 17° l'ottavo posto in classifica e quindi dopo, la situazione è un po' grigia. Dopo il simpatico Trevisan di settimana scorsa che diceva a nessuno fuori da Firenze in porta della Fiorentina, citiamo un altro genio poeta che si è espresso sull'argomento recentemente. Parliamo di Fabrizio Biasin, che in via del tutto eccezionale non ha mai successo nella storia di questo programma, andiamo a leggere integralmente. Ha esperienza, conosce il club, ottima scelta quella di Pioli per il post Palladino. Io me li ricordo i faciloni della scorsa estate, quelli che si immaginavano una Fiorentina agilmente in zona Europa e ti spiegavano la vita. E me li ricordo benissimo perché ero io. Lo stesso. Rendiamo merito a Biasin per questo pensiero lucido sull'accadimento, accadimento che vede la Fiorentina. Ah, 3 punti in 6 partite con soli 4 gol fatti. Male, molto, molto, molto male. E la prossima partita va, cioè, dopo la pausa ovviamente della nazionale, andrà col Milan a Milano, quindi non una trasferta semplice. La Roma invece va a cercare conferma della propria potenza all'Olimpico contro l'Inter. Esatto. Interessante. Ah, sfida interessante, sfida interessante, perché l'Inter merita un posto nella nostra top 5, perché vince comodamente contro l'imbattuta Cremonese. Contro l'imbattuta Cremonese, era la prima sconfitta per la Cremonese. Cremonese che aveva vinto contro il Milan a San Siro nel primo viaggio di stagione, diciamo così. Gasando comunque. Gasando un po' tutti, esatto. Con un gol al volo di Bonazzoli che a quanto pare, se va a San Siro, deve segnare al volo. Deve segnare al volo? Se no, non ce la fa. È una cosa sua, sì, di sì, Bonazzoli. È una cosa proprio sua. Anche sì, se sì, non sì. conta, ma lo fa. Deve farlo. Sia che conti che non conti, lo fa. E infatti l'ha fatto anche a sto giro. L'Inter vince, diciamo, 4-1 e scopre diciamo l'aggiornamento migliore che è stato fatto rispetto alla squadra dell'anno scorso, secondo me, cioè il ricambio in attacco. Bonnì in una partita ha fatto esattamente quanto Taremi l'anno scorso in una stagione, forse un po' di più. No, secondo me di più. Uno l'ha fatto, secondo me, in coppa ti dicono, no, regia. È un gol in campionato, Bonnì l'ha già fatto, e quindi Bonnì in una partita ha già pareggiato tutto quello che oltre, è andato oltre, e in effetti, perché si partiva con l'infortunio a Thuram, sì, che è un infortunio importante. L'anno scorso Taremi, Arnautovic, Correa c'era l'anno scorso? No, forse Correa no, sì, mi sa, sì, c'era, sì, era tornato Marsiglia, perché l'aveva bollato, aveva bollato pure un paio di volte, se non mi ricordo male, addirittura per quella questione di griglie calde. Era delle griglie, era venuto a grigliare, mancava il piccicci della picagna. E quindi comunque vittoria secca netta. È un Inter che comunque ha perso alcune partite per strada, però mi sembra che stia crescendo. Abbiamo detto attenzione a tirar fuori l'Inter dal discorso scudetto, perché non è così, perché è un gioco rodato che, cioè, c'ha sempre quel controllo del gioco esterno, tuo esterno, verticalizzazioni veloci, lo fanno sempre e lo fanno bene. È gente che gioca insieme da 4-5 anni, qualcosa del genere. Ed è proprio per quello che non può non essere l'uomo in top 5, Angelo Bonnì, che è dentro tutti i gol. Uno lo fa ed è sì, dentro gli altri tre. È appunto quello che sale dalla panchina per sostituire l'infortunato Thuram. Esposito, l'altro attaccante aveva segnato la settimana scorsa, quindi mi sembra che da quel punto di vista la squadra sia ricambio, cresciuta. Tu pensa a due ragazzini poi, Esposito e Bonnì sono due ragazzini, sono comunque giovani, quindi è un buon investimento che racconta di un buon mercato fatto dall'Inter. Inter che ci sembra crescere anche lì in consapevolezza, diciamo così. Ha perso 2 partite con le due squadre bianconere, c'è un po' di problema con il bianconere, che ha perso con l'Udinese e con la Juve. Due partite abbastanza strane. Quindi, esatto. Controllo, ma non ci sono altre bianconere, quindi non dovrebbe perdere più nel giro di andata. È un bel casino, se fa così è un bel casino. Potrebbe andare, insomma, è una di quelle che, insomma, secondo me l'anno scorso se l'ha buttato via l'Inter lo scudetto. Quindi l'ha vinto il Napoli, ma l'ha buttato via un po' l'Inter lo scudetto, con la testa concentrata alla Champions, alla finale e tutto. Se Acerbi non faceva quel gol contro il Barça, col Barça, quello lì finiva che vinceva lo scudetto l'Inter. Invece un bicycle kick di Riccardo Orsolini al 94esimo, quello e qualcos'altro, ha cambiato il corso della storia anche con la Lazio. Così. Pedro un bel po', anche un Pedro con la Lazio che ha cambiato contro i fratelli laziali, con i fratelli che è la seconda volta, vabbè, lasciamo perdere. È una buona Inter, è lì, è dietro, è in questo momento ha raggiunto quota 12 sotto il Milan di un punto insieme alla Juve che abbiamo già citato. Continuiamo, manca un punto? Potrebbe mancare un punto secondo me, vero? Manca il punto. Il punto più bello di tutti. Il punto più bello di tutti. Viva Di Francesco, noi siamo degli appassionati, noi gli vogliamo un lunedì bello. Per lui, da quanto non passavo il lunedì? Era un bel po', ci piace. Vince il Lecce, vince la sua prima partita di questa stagione, vince a Parma, dopo aver pareggiato col Bologna, noi abbiamo dato un po' quel brodino, quello sprint che serviva per rilanciarsi, vince invece contro un Parma che aveva ben fatto nella partita precedente. Via Emilia è andata bene. Esattamente, il gol è di Sottil, un po' fortunoso, Sottil che comunque per il Lecce potrebbe essere un giocatore importante. Giocatore forse recuperato al gioco del calcio. Era un po' perso, però nel Lecce potrebbe trovare la sua casa, diciamo così, e il Lecce a questo punto ovviamente con una vittoria si toglie dalla parte bassa della classifica che avevamo appunto citato con Pisa e Genova, l'ultimo posto con Pisa e Genova, va a 5 punti, 2 punti in più della Fiorentina. Quindi... Sì, si va ad appaiare al Parma e al Torino in quella zona proprio in cui si respira. In cui diciamo. Si respira di tranquillità. Comunque sono dei grossi nomi giù, eh? Ancora sì, qualche nome. Siamo ancora. La Lazio ha fatto una partita davvero matta, non è in top 5 perché non ce la siamo sentita. Un grande Cancellieri merita una menzione. È una Lazio che riesce a trovare facilmente la via del gol, dietro non è irresistibile, che no. Provedel male, a tratti malissimo. E una nota su Piccinini che è a 2 metri da un calcio di rigore abbastanza ovvio, ci mette 10 minuti a darlo, ma fa molta tenerezza quando comunica allo stadio la ratio della sua decisione. Si è tolta un po' quell'aura da arbitro superuomo che abbiamo visto nel primo annuncio chiamato al pubblico in questa stagione di Serie A. C'è un timido Piccinini che dopo essersi fatto sfuggire perché non l'aveva visto lui. Era lì, era 2 metri, non l'aveva visto. Non l'aveva visto. Quindi non poteva sburoneggiare più di tanto. A seguito di revisione, il giocatore numero. Non si ricorda. Tato, Piccinini, Tato. Vabbè, siamo all'inizio di questa nuova tecnologia, no? Ci può stare. Poi il bello della diretta, ragazzi. Comunque, è un punto che permette alla Gazzetta di fare 4 pagine sul Torino dopo un pareggio. Ma questo che. Okay. 3-3, appunto, di Lazio Torino. Non abbiamo parlato neanche del Sassuolo, che comunque ha vinto la sua partita e adesso a 9 punti, quindi 3 vittorie per i neroverdi al ritorno in Serie A. Direi che siamo completi. Era una top 5 esaustiva.